diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up. Qui con voi Patrizia Curreri questa mattina del 4 marzo 2013. Oggi è appunto lunedì e si sa che all'inizio della settimana è un po' più faticoso alzarsi e fare tutto quello che il lunedì si prospetta di fare, quindi accompagnare i bambini a scuola, incominciare a fare un po' di faccende domestiche a casa, ecco un po' tutto questo. Ma noi vi teniamo compagnia questa mattina con l'allegria, con la spensiera testa che ci contraddistingue, con la bellissima e allegra carica musica di CRM Happy Radio. Quindi state in ascolto con noi. Intanto vi do le nostre coordinate appunto per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335 56 37 251, o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci su internet al sito www.crmhappyradio.it, o ancora siamo pure su Facebook. Anche lì potete richiedere la vostra musica e io vi accontenterò, ecco, così sentiamo anche le vostre richieste, i vostri desideri per questa mattina del 4 marzo 2013. Faccio intanto anche gli auguri a tutti coloro che fanno il compleanno questa mattina, e anche l'onomastico, in special modo faccio gli auguri a mio nipote che oggi fa ben 10 anni. Tanti auguri, tanti auguri. E intanto noi ci ascoltiamo la prima nostra bellissima canzone di CRM Happy Wake Up con gli Swedish House Mafia, Don't Worry Child. Quindi svegliamoci questa mattina del 4 marzo 2013. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Now the memories on the wall, I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child, see heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think over now and then. I still hear the song. Yeah. il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. I can pay for everything that's on you. Yeah. So everything is on me. Ooh. Got them girls going Cindy Lauper, Gaga, and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a brand, everybody want each. Yeah, so bring the verb, click out. Think about it, hit the big three out. Party like this carnival in Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. So we can have a good time, yeah. I'm in it busy looking for the next top model. Who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of pill to swallow. So forget about tomorrow. Tonight, we're drinking from the bottle. As long as they ain't getting it wrong, then everything is alright. Got them girls going high, the cream, the Kardashians, the general types. If you ain't leaning, you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Tell the bar that we don't need no sparklers or nothing. Just keep the bottles coming all night. Yeah, so bring the verb, freak out. Think about it, hit the big three out. Party like it's carnival with Rio. Life's too short, I need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. Oh, so we can have a good time, yeah. I'm in it busy looking for the next top model. Who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of pill to swallow. So forget about tomorrow. Tonight, we're drinking from the bottle. Drinking from the bottle. Ecco un modo per svegliarci con una carica diversa con Calvin Harris, Drinking for the Bottle, CRM Happy Wake Up. E anche ci sono buone notizie che magari la mattina, ecco, arrivano al momento giusto, ossia spesso la mattina si sta nel letto prima di alzarsi e si pensa un po' alla propria vita, alla propria carriera, un po' ai propri sogni, ai propri desideri, se questi si siano realizzati o meno e quando realizzarsi. Ecco, uno studio condotto in Gran Bretagna e rileva che l'età ideale per diventare un genitore è 26 anni e quindi la consulente, quindi questo studio che ha pubblicato questo studio appunto su una rivista britannica, e hanno pensato appunto che le donne prima di avere un figlio vanno progettando la propria carriera, ma si può avere successo nella vita lavorativa anche da genitori e al contempo possono coltivare le proprie passioni. La stragrande maggioranza di giovani donne che hanno risposto al loro sondaggio ha ammesso di avere maturato l'idea di diventare madre poco dopo essere entrate nel mondo del lavoro. Per questa nuova generazione la carriera è al secondo posto dopo la costruzione di una famiglia. Un terzo delle donne intervistate per questo studio ha risposto dunque che avere un primo figlio all'età di 26 anni era perfetto.

Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Torniamo con Kesha, TikTok, CRM, Happy Wake Up. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-923292. Oppure potete sentirci e vederci su internet al sito www.crmhappyradio.it. O ancora, se volete dei consigli da noi, da CRM Happy Wake Up, ecco che arriva uno per una meta molto ambita nel 2013, ossia con l'avvento appunto della primavera e per sfuggire un po' dalla crisi economica e dalle varie difficoltà che si sta attraversando, ecco un consiglio che appunto ci viene dal web, ossia una meta molto ambita anche e soprattutto per i bassi costi e per i servizi che comunque offre rispetto appunto ai costi che ci sono. Ecco, è quella di Istanbul. A metà tra Europa e Asia, Istanbul ospita una di quelle che molti considerano una delle migliori mete turistiche visitabili gratuitamente in Europa. Si tratta del Grande Bazar, il più grande mercato antico coperto al mondo, che è aperto dal 1461 ed ospita oltre 3.000 negozi. Quindi, donne in ascolto, ecco, un grande centro commerciale, antico pure, che sarà bellissimo, appunto 3.000 negozi, chissà cosa c'è da sbizzarrirsi, ecco. E il costo degli hotel è anche abbordabile. Infatti il prezzo di una camera parte da 20 euro a notte. Se si decide appunto di scegliere un ostello, si può scendere anche dai 10 a 11 euro a notte. Ma anche per gli hotel a 5 stelle si possono trovare offerte e promozioni che lì possono rendere del tutto abbordabili. La scelta dell'albergo però appunto non deve essere affrettata. Infatti Istanbul è una vera e propria metropoli con oltre 13 milioni di abitanti e ha una superficie di poco superiore a quella della Liguria. Si può capire come un albergo appunto lontano dai luoghi che si intendono visitare può comportare uno spreco di tempo da non trascurare, per quanto sia dotata di una delle più antiche metropolitane pensate del mondo, aperta nel 1875. E poi la terza, dopo quella appunto di Londra, che è stata aperta nel 1863 e quella di New York nel 1868, quindi una meta diversa da tutte le altre e magari che ha, non so, un'atmosfera particolare tra l'Europa, tra l'Europa appunto e l'Asia, chissà. Quindi questo è un consiglio da parte del CRM Happy Wake Up, poi vedete voi. Smiled when you're in pain. You who soldiered through the profane. They were distracted and shut down. So why would you talk to me at all? Such words were dishonored. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss our apologies made was an enemy with no escape.

mai ad aspettare. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, le donne, questa è Alicia Keys con Girl on Fire. Se chiedete a qualche maschietto, marito o compagno, fidanzato, quale sia, qual è comunque il difetto più grande, quello più insopportabile delle vostre, delle sue donne, delle donne in generale, vi diranno subito che sono insopportabili, che è proprio la sera, magari quando si è avvinghiati sotto le lenzuola oppure nel divano a guardarsi un bel film, e hanno sempre le mani e i piedi freddi. Cioè, è capitato sicuramente a tutte, perché a tutte capita, appunto, soprattutto nel periodo invernale con i primi freddi, appunto, di avere le mani e i piedi gelati, e quindi noi ci riscaldiamo cerchiamo di riscaldarci non nella stufetta o nel termosifonio né davanti al camino, ma verso il nostro partner, e lui, appunto, non piace, non è sicuramente piacevole questo momento intimo, ecco. E quindi si è studiato, appunto, si cerca, appunto, di studiare perché noi donne abbiamo queste mani e questi piedi gelati, e soprattutto quando sentiamo abbiamo i primi freddi. E la, lo studio è stato condotto da Michael Tipton, professore di fisiologia umana applicata presso l'Università di Portsmouth, che afferma che sono questi ricettori della grandezza inferiore a un millimetro che si trovano sotto la superficie della pelle, che sono appunto i responsabili della variazione di temperatura. Di norma i termorecettori regolano la temperatura in modo che risulti confortevole, agendo sull'afflusso di sangue che giunge ai capillari. Quando fuori la temperatura scende, avviene una riduzione di questo afflusso. Il sangue viene dirottato in maggior quantità verso gli organi interni vitali, come cuore, polmone e fegato, in modo che siano protetti dal calore. Di conseguenza, un ridotto afflusso di sangue è appunto all'estremità, detto vasocostrizione, causa una discesa della temperatura. Ecco perché ci troviamo con mani, piedi e naso freddi. In parte perché sono più esposti, ma anche perché il corpo sacrificherà queste estremità per mantenere caldo gli organi interni. Tutto secondo il circolo appunto naturale delle cose, ma per le donne avviene in modo eccessivo. Quindi questo succede anche ai maschietti, ma anche noi donne abbiamo, soprattutto noi donne abbiamo sempre tutto molto eccessivo, tutto sempre esagerato, appunto come riportato da questo studio. È emerso che nel sesso femminile alle basse temperature la vasocostrizione avviene in tempi molto più rapidi. Il flusso di sangue nella pelle si riduce prima e più intensamente rispetto agli uomini, e poi alle donne ci vuole più tempo per riscaldarsi, capito? Ha spiegato il professore Tipton. Il tutto dipenderebbe dagli ormoni estrogeni che devono regolare i vasi sanguigni periferici. In parole povere, alti livelli di estrogeni abbassano la temperatura delle estremità del corpo. Si aggiunga poi che durante le ovulazioni la donna è più soggetta alle variazioni climatiche, mentre in gravidanza e raffreddamento di mani e piedi potrebbe essere correlato alla necessità di proteggere il bambino. Ma in alcuni casi le donne con mani fredde possono essere portatrici di patologie, come nel caso della sindrome di Raynaud. Quando vengono esposte alle basse temperature, le estremità sono fredde, bluastre, indolenzite e torpidite, anche tremanti. Questo morbo colpisce soprattutto le donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Quindi avete preso nota, spero di sì, almeno per queste piccole indicazioni sul perché noi donne dobbiamo sopportare sempre queste mani, questi piedi freddi, ma soprattutto non dobbiamo sopportarlo noi, ma i nostri mariti e i nostri compagni. Ci vendichiamo così. I used to rule the world, seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Be my mirror, my sword and shield. when I rule the world. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Dada Life, Feed the Dada, e a ritornare nelle scene facebookiane è lui, Vasco Rossi, che torna su Facebook con un clippino, maglia verde e occhiali al collo, fa sentire un breve accenno della sua nuova canzone, L'uomo più semplice. Un paio di frasi seguite da qualche problema tecnico, poi partono le prime note e il rocker mima l'accompagnamento al piano. Era dall'estate 2012 che l'artista non utilizzava il suo tipico modo di comunicare con brevi video sul social network, ed essere ritornato e a giugno c'è il suo concerto. E adesso ci ascoltiamo Vasco Rossi, è già. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via, il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Hey! Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole, io sono ancora qua. Thank you.

il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche la. Insieme ad Eros Ramazzotti siamo degli angeli distesi al sole, bellissimo sole, dice Falucchi, e quest'oggi è del 4 marzo 2013 e appunto splende sulla nostra bellissima città. E ritorniamo appunto con me, con Patrizia Curreri a CRM Happy Wake Up, a parlare un po' e a incuriosirci di qualcosa che magari ci domandiamo, oppure come possiamo fare questo, come possiamo fare quell'altro. Ecco, qualche curiosità ce la svegliamo un po' noi questa mattina. Ecco invece un modo. Ho trovato un modo per rendere innocuo il lunedì. Appunto, come dicevo all'inizio della trasmissione, naturalmente quando si arriva il lunedì mattina, appunto, si fa fatica ad alzarsi, ad affrontare la giornata. Però alcuni studiosi hanno trovato 5 modi per rendere innocuo questo inizio settimana. Il primo modo è quello di stabilire obiettivi ragionevoli. Invece che iniziare ad attaccare la sua imponente lista delle cose da fare per sentirti subito sovraccaricato, stabilisci molti piccoli compiti da portare a termine durante il giorno. Renderà questo più facile rimanere concentrato sul percorso tracciato e potrai complimentarti con te stesso ogni volta che ne porterai a termine uno. Quindi poi invece il secondo modo è quello di premiarti. Ogni volta che raggiungi uno dei traguardi stabiliti, datti un premio. Basta una breve passeggiata fino alle macchinette per comprare un dolcetto oppure un caffè con un collega. Questo tipo di incentivi renderanno il lunedì più piacevole. Poi il terzo modo invece è quello di creare una playlist del lunedì. Un po' questa volta questa notizia un po' l'avevamo data qualche tempo fa, appunto, di creare delle playlist per combattere lo stress. E quindi in quel caso appunto il discorso era preso un po' troppo alla lettera, ma è davvero utile avere una serie di canzoni che ami e che ti diano la carica per affrontare l'inizio della settimana. Un po' quello che facciamo noi qua a CRM Happy Wake Up per voi. Noi siamo la vostra playlist preferita. Poi c'è il quarto modo, è quello di staccare la spina almeno un po'. Cosa voglio dire? Il lunedì mattina appunto non è il momento migliore appunto per essere completamente scollegati al lavoro, ma può fare qualche eccezione. Una volta che hai scaricato a letto la posta, spegni l'email e stabilisci alcuni orari nella giornata per controllarla, e poi metti tutte le chat con lo stato occupato e sarai sorpreso da quanto ti sentirai meno disperso. L'ultimo modo, se non quello più efficace, è quello di fare qualcosa di nuovo. Scegli un nuovo posto per il pranzo, fai un giro nel mercato più vicino, fai un po' di stretching al parco durante la pausa. Cambiare la tua routine ti darà qualcosa in più per poter far passare velocemente la giornata, e anche in un modo diverso. Quindi su questi sono i 5 modi per affrontare questo lunedì. Quindi fate un po', scegliete quello che per voi è più congeniale. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks

anche CRM Happy Wake Up ha più stile. Questo lo dico io. Potete inviare un sms al 335-56-37251, telefonare allo 0921-923292, oppure potete sentirci e vederci su internet al sito www.crmpiradio.it per avere più stile anche voi con me questa mattina del 4 marzo 2013. E poi cercavo sempre su internet, pensavo appunto al lavoro, molti stanno appunto cercando un lavoro, quanto più che abbia un certo contributo, un certo stipendio e così via. Però pensate che c'è una classifica, cercando appunto riguardo al lavoro, c'è una classifica tra dei lavori meno stressanti, cioè che stressano di meno. Al decimo posto, quindi andiamo dal basso verso l'alto, quindi in modo crescente, abbiamo quindi il livello di stress 6.45, i professori universitari che stanno al vertice appunto dell'insegnamento. I loro studenti in larga parte hanno scelto intenzionalmente di seguire le loro lezioni e di norma sono felici di essere in aula, al contrario di quello che spesso accade agli insegnanti della scuola primaria e secondaria. La qualità del loro lavoro, così come l'ambiente in cui operano, raggiunge quindi ottimi standard, quindi gli insegnanti universitari sono contenti del lavoro che fanno. Poi al nono posto abbiamo i sarti, che il loro livello di stress è di 6.5. I sarti cuciono abiti su misura, è su specifica richiesta. Per questa ragione possono prestare la massima attenzione ai dettagli e possono lavorare con creatività ogni giorno. La maggior parte di sarti lavora in ambienti in cui regna la quiete, che consente loro di concentrarsi sul lavoro manuale senza distrazioni. Quindi anche il lavoro del sarto viene inteso come un lavoro meno stressante. Poi abbiamo l'assistente di ambulatorio. Chi fa questi mestieri lavora negli ospedali e spesso gli ambulatori e gli studi privati, i medici e i dentisti. Si occupa di prendere appuntamenti, archiviare documenti e accogliere i pazienti. Il livello di stress 7.5. Poi abbiamo, non mi ricordo a che punto siamo arrivati, forse al settimo posto, gioielliere orafo. Gli orafi lavorano lontano dai riflettori nei laboratori e dietro le quinte delle gioiellerie. I gioiellieri di maggior successo sono imprenditori con i propri punti vendita, mentre la maggioranza ha buone opportunità di comprare e vendere metalli preziosi con profitto. Livello di stress 8.26. Poi abbiamo il tecnico di laboratorio. I tecnici di laboratorio lavorano in ambienti che favoriscono la produttività, liberi da distrazioni per poter analizzare a dovere i campioni. Lavorano lontano dagli occhi del pubblico e i tecnici sono in grado di concentrarsi completamente sul proprio lavoro in pace. E il livello di stress è di 9.28. Poi abbiamo lo audiologo. Il settore dell'audiologia sta crescendo in maniera esponenziale, di pari passo con l'allungamento delle aspettative di vita. L'ambiente lavorativo è piacevole, i clienti sono passivi e la maggior parte degli audiologi porta avanti i propri compiti negli orari stabiliti. Già il livello di stress è di 9.35. Poi abbiamo il dietista. I dietisti hanno un ruolo sempre più importante, visto l'aumentare di casi di obesità anche in Italia. Molti di loro lavorano con persone di qualsiasi età e stile di vita e tendono a concentrarsi nel costruire programmi individuali per aiutarle a raggiungere il loro peso forma e il livello di stress è di 10.24. Poi ancora abbiamo gli ultimi due lavori meno stressanti e sono il parrucchiere. Pensate un po', un parrucchiere lavora in un ambiente frenetico con clienti che vanno e vengono tutto il giorno. Comunque è proprio l'interazione con i clienti uno dei fattori positivi di questo mestiere, poiché molti di loro diventano amici. Questo settore promuove la creatività e, nonostante sia faticoso, può dare buone soddisfazioni economiche. Livello di stress 10.58. Poi abbiamo il bibliotecario. Un'atmosfera silenziosa e un limitato accesso alla lettura rende quella del bibliotecario una buona opzione di carriera per chi ama i libri. I bibliotecari hanno possibilità di impiego nelle scuole, negli atenei e nelle biblioteche comunali. Livello di stress 10.4. E infine l'ultimo lavoro appunto meno stressante, pensate un po', è l'addetto alla pressa. Anche se si tratta di un lavoro nell'industria pesante, questo mestiere non è pericoloso e gli operai addetti hanno la capacità di lavorare in tranquillità, cosa che rende questa professione una delle più ambite nell'industria. E il livello di stress è 11.20. 32, quindi siamo arrivati al massimo, quindi questo è il mestiere meno stressante. Quindi se avete preso nota, ecco, potete scegliere tra questi mestieri. Io il mio l'ho scelto, del bibliotecario, che mi piace tantissimo stare in mezzo ai libri e scegliere quelli più belli, quelli più vecchi, e un po' anche confrontarmi con chi è davanti a me. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a cool time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a cool time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a cool time. I can feel it. And hey. We gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. She on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' raw. Half black, half white, diamond, no. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin'. On a rise to the top, no Led or Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shake it down. Now you home with me, you naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Shuffling. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. I'm all yours tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. I'm all yours. Success is here and she don't play. I'm ready for it all. Throw it my way. Heart torn and I doubt you can save it. It's okay. It's been like that since I was a baby. Thoughts deep. deep scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, I see right through ya. Four lawsuits, 1 year. Two down, two to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. For yours tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. And celebrate tonight. And together we gon' touch the sky. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. I'm all yours. Siamo ritornati, ho perso un po' di tempo, scusate. Allora, siamo di nuovo qui a CRM Happy Wake Up, però distratta sempre dalle notizie che vado cercando appunto da comunicare, da condividere. Poco prima dicevo appunto che quando era il momento migliore, c'era uno studio britannico che decretava qual era il migliore per avere un primo figlio. Adesso invece qua un altro studio condotto sempre da vari appunto professori, tra i quali Colin Espai, e ha condotto uno studio riguardo al mese dell'anno in cui si dorme peggio. Qual è il mese dell'anno in cui si dorme peggio? Ed è proprio il mese di febbraio, che ormai è passato e lo troviamo alle nostre spalle, in cui si impiegano in media 8 minuti in più per addormentarsi rispetto agli altri mesi. A febbraio ne impieghiamo 56 contro i 48 minuti di marzo. Inoltre, chi soffre di insonnia sta sveglio 10 minuti prima in più rispetto 10 minuti in più rispetto sempre al mese di marzo. Perché appunto febbraio? Febbraio è il mese dell'anno in cui fa più freddo, ha spiegato il professore. Così si tende a surriscaldare le nostre case, il che non aiuta a dormire. Questo è anche il mese dell'anno in cui ci sono meno ore di luce, anche se le giornate si allungano un po'. Ma la mancanza di luce solare nel mese tradizionalmente grigio gioca sul nostro morale e sulla qualità del nostro sonno. Quindi ci sono queste più che altro le motivazioni. Però ci sono gli esperti che decretano le 10 regole d'oro per dormire bene. Al primo posto abbiamo orientare possibilmente la testata del letto verso il nord, quindi ci sono appunto queste disposizioni anche del letto, metterlo a sud però la testa verso il nord, almeno così dicono che si dorme meglio. Poi al secondo posto, dormire in assenza di luce naturale o artificiale. Al terzo posto evitare di bere alcolici e caffeina e fumare prima di addormentarsi. Poi areare giornalmente la stanza del letto mentre l'aria è fresca e la luce hanno un buon potere germicida. Poi non avere apparecchi elettronici nella stanza da letto per evitare campi magnetici, usare biancheria in fibra naturale come lana, cotone, lino e piuma, oppure poi mantenere la temperatura della camera intorno a 17-20 gradi con un'umidità del 60%. Poi proteggere il letto con l'opposito coprimaterasso, dormire su di un materasso di buona qualità e controllare periodicamente il supporto su cui appoggia. E poi sostituire il materasso massimo ogni 10 anni. Queste sono le 10 regole d'oro per dormire bene, se sia febbraio, se sia marzo, non importa. L'importante è che dormiamo, così siamo più svegli, più attivi il giorno dopo. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. No. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Questi erano The Script, Hall of Fame con Will I Am, CRM, Happy Wake Up. E ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-92-32-92. Oppure potete sentirci e vederci su crmepiradio.it. E quando è detto una, cioè, soltanto la mamma è unica, è una sola, questo non è per la vicenda di Beatrix, una bambina nata lo scorso settembre che ha ben tre madri. E infatti la prima madre, la madre appunto originale, non può avere figli, non ha potuto avere figli e ha chiesto la fecondazione, donare il suo ovulo dalla sorella. Però la sorella non voleva partorire perché sarebbe stata la prima gravidanza e quindi l'ha fatto per lei la sorella del marito. Quindi pensate, tre madri per una sola bambina. Però l'affetto sicuramente non gli mancherà. E adesso ascoltiamoci Linkin Park con What I've Done. In this farewell, there's no blood, there's no alibi, 'cause I've drawn regret from the truth of a thousand lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of what I've done. But you ask what you thought of me. Well, I clean this slate with the hands of uncertainty. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. non aspettare il momento opportuno, crealo. E questo è appunto l'augurio di CRM Happy Wake Up questa mattina del 4 marzo 2013. Siamo alle battute finali e mentre Don Omar e Asta che salga il sol, quindi aspetta che sale il sole, noi qua c'è fallù, il sole splende ed è il momento anche di fare delle belle passeggiate, rilassarsi un poco tra una pausa di lavoro e l'altra. Ma comunque non continuate a stare con noi, perché adesso c'è Slalom con Francesco Puglisi, quindi tanta bella musica italiana e nonno anni 80 e quindi tante altre notizie interessantissime, e quindi state in contatto ancora con noi, con CRM Happy Radio. Io vi do l'appuntamento venerdì sempre dalle 9 alle 11 con me, con Patrizia Curreri.